Io quando faccio rap esplodo, rime su rime su rime, quando prendo il mic lo vedi che godo. Quando rappo non c'è storia, è proprio una passione. Quando rappo se ci scappo è la mia evasione. Quando rappo la realtà è la fonte di ispirazione. E quando rappo sta città la metto in discussione. Quando rappo stappo colli con gli amici più folli, miei fratelli. Da Piscelli a mezzi uomini, i momenti più belli. Da entra su Garelli alle voci sugli spinelli. Io non fumerò mai, non sono mica uno scemo. Ed ora guardami, hanno provato a salvarmi. È un problema se così riesco ad amarmi. Il problema è che non sanno accettarmi. O non sono all'altezza di rapportarsi. Non sono cose nemmeno da domandarsi. Non fai parte di me, dei miei programmi. E quando rappo viene facile eclissarti. Fogli con scarabocchi, è la terza volta che mi tocchi dentro. Così l'odio l'aumento, più corro contro vento. Con il fumo di traverso più tempo, sembra che non ha forza, sostiene ma stento. E mi stendo per terra come dopo un gancio al mento. Ma sono contento, contento. Questa vita è una figata e la difendo da chi vuole togliermi anche la risata. Rappo e qua il rap lo rappresento. Un dream, un blackout e con ogni pessimo elemento. Con Roy e il Beccio, bella stessa Linda Paus. Ed ancora ad Ancona per svelto, fino alla scena di Sena Potenzio. Con sostegno d'Elbe, Marco, Federico e Lorenzo. Per i riga di Giga Flow, Blow. Chiudo con Gonzo, Recco e Stop. Pronto fuori tutti quanti, Genova, Sardegna, Reggio Emilia. Tutti, tutti, viva l'Italia, le Marche, tutte le Marche. Levis, Dolce Gabbana. Yeah.